Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io che parlo in radio, su Twitter @luogoc, oppure scrivetemi una mail luogocomune.radio@gmail.com con pareri, suggerimenti, critiche, anche spero quelle sempre poche ovviamente. Il luogo comune che tratteremo oggi è la montagna è da vecchi e ne parliamo in collegamento qui in studio con Roberto Bernardi, vicepresidente della sezione di Roma del CAI e direttore della scuola di escursionismo. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Senti Roberto, il luogo comune è la montagna, è da vecchi, e allora cominciamo con un po' di pratica, insomma, ovvero quando è iniziata la tua passione per la montagna e come l'hai messa in pratica appunto nella tua vita quotidiana? Ma io ho iniziato molto giovane, avevo 16 anni, quindi avevo le mie vacanze venivano svolte in Abruzzo, dove abbiamo una casa, e da lì, vicino al Gran Sasso, ho iniziato a fare le prime escursioni, mi sono appassionato, e la problematica che hanno un pochino tutte le persone che si avvicinano alla montagna è trovare persone che le seguano, perché siamo comunque qui a Roma piuttosto pigri, la mattina della domenica svegliarsi molto presto per andare in montagna diventa un problema, quindi mi sono avvicinato al CAI soprattutto per trovare altri appassionati come me che avessero appunto la voglia di passare i fine settimana in montagna, e da lì è stata una passione, un'escalation, e non solo le semplici passeggiate, le semplici camminate, ma anche qualcosa in più, la montagna vissuta non solo l'estate ma tutto l'anno, anche l'inverno, anche nelle stagioni, anzi l'estate forse è la stagione meno interessante dal punto di vista montano, i colori dell'autunno, il fascino dell'inverno, dell'ambiente innevato, anche altre discipline, lo sci di fondo, escursionismo, la mountain bike, quindi è stato proprio un coronamento di un sogno arrivare al Club Alpino Italiano. Senti, ma tu sei romano, giusto? Sì. E le tue prime avventure dove le hai vissute? Sei andato Terminillo, Gran Sasso? Come ti dicevo, sì, ho una casa non lontano dal Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga, che è un unico parco nazionale, ma in realtà sono due gruppi montuosi, quindi sia sul Gran Sasso che nei Monti della Laga ho svolto le mie prime escursioni. E come hai fatto con la compagnia? Cioè, avevi qualche tuo coetaneo che ti seguiva? Sei riuscito a coinvolgere, quando eri, ovviamente parlo della prima parte di questa tua esperienza, riuscivi a coinvolgere dei ragazzi, coetanei, insomma? Ma in realtà io ho trovato molti coetanei, io avevo all'epoca 20-26 anni quando ho iniziato l'avventura nel CAI, anche se andavo appunto in montagna già da molti anni per mio conto, con qualche amico che avevo proprio in questo luogo di vacanza, che però appunto per vari motivi si era trasferito su al nord in Lombardia per lavoro, e quindi appunto lui stesso mi disse dell'esistenza del CAI e di poter trovare qualcuno lì in questa associazione, e quindi ho iniziato in questo modo, andando da solo lì e incontrando tanti appassionati, molti coetanei devo dire, ma la montagna unisce da questo punto di vista. Io ho trovato in una passione anche il piacere di stare con persone di altre generazioni, anche persone molto più grandi. Siamo uniti dalla stessa passione, appunto. Senti, ho visto che il CAI di Roma ha una sezione anche di alpinismo giovanile. Oggi mi sono fatto un pochettino un giro sul sito ed è dedicata proprio a quei ragazzi dai 7 ai 18 anni. Esattamente. Come lasso di tempo, che vogliono approcciare appunto al mondo dell'alpinismo e delle escursioni, al mondo della montagna, diciamo in generale. Che tipo di lavoro fate con i ragazzi? Beh, è un lavoro che nasce appunto dall'età più giovane. 7 anni è un limite che è stato dato per gestire un gruppo di ragazzi, perché al di sotto, al di là delle possibilità fisiche, è difficile gestire un grosso gruppo di di bambini, di ragazzi che vanno in montagna. Il lavoro che ha fatto la responsabile dell'alpinismo giovanile, Livia Steve, è stato ottimo negli ultimi anni. I ragazzi sono aumentati in maniera sensibile nell'arco degli ultimi 5-6 anni. Non solo provenienti da genitori già iscritti appunto al CAI che frequentano, ma anche provenienti un po' dall'esterno, quindi un lavoro fatto anche nelle scuole di sensibilizzazione, di un approccio diverso appunto del vedere la montagna, terreno di gioco ma anche terreno di acculturamento, di conoscenza del territorio, di rispetto dell'ambiente, tutti temi che sono nell'articolo 1 dello statuto della nostra associazione. Senti, che tipo di feedback avete che tipo di riscontro avete da questi ragazzi? Prendono il discorso della montagna? Sicuramente c'è una fase dell'età, soprattutto quando entrano nell'adolescenza, che l'aspetto sociale raggiunge un livello molto importante, perché andare in montagna è bello, ma andarci in compagnia con altri ragazzi della proprietà è un motore molto, molto forte di trascinamento appunto nell'andare in montagna. Generalmente c'è un piccolo allontanamento subito dopo l'età maggiorenne, intorno ai 18-19 anni, si allontanano per tornare subito dopo, quando magari altri fatti della vita li hanno fatti riavvicinare comunque ad avere del tempo da poter gestire appunto nei weekend, e quindi c'è un rientro. Io per mio conto, dirigendo questa scuola di escursionismo della sezione, posso dirti che moltissime le persone che si iscrivono nei nostri corsi sono persone che hanno comunque avuto un imprinting magari con i genitori quando erano bimbi, e poi in età adulta, dopo oltre i 30 anni, 35, hanno proprio questa quasi necessità di tornare in montagna, di riavvicinarsi alla montagna. Ma quindi, senti, questa immagine del bambino cittadino, anche perché immagino che voi del CAI comunque di Roma abbiate come bacino d'utenza, percentualmente, insomma, ovviamente romani, quindi ragazzi o comunque giovani che fanno parte di una città molto grande, ecco. Non voglio dire metropoli, perché chi è stato a Parigi, a New York, vede Roma, insomma, è un po' relativa come metropoli, anche se come comune è molto esteso. Diciamo questo luogo comune che vuole i bambini di città abbastanza sedentari davanti alla televisione, tu che hai questo approccio diretto con comunque una disciplina anche sportiva, oltre che diciamo proprio anche di filosofia di vita, ti sentiresti di smentirla? Cioè, li vedi attivi, li vedi che c'è molta voglia, insomma, i ragazzi respirano molto l'atmosfera che c'è in casa, quindi è indubbio che chi, anche la famiglia che avvicina i propri figli alla montagna, anche se non è direttamente coinvolto, ha un approccio appunto con questa attività, con l'attività sportiva, molto positivo. Quindi certo, globalmente, io ho un figlio di 12 anni, vedo che globalmente i ragazzi sono pigri, il romano, lo stereotipo del romano, il romano è vero. Non c'ha mai voglia di fare niente. ed è vero, da questo punto di vista possiamo dire che noi a Roma abbiamo, per farti un po' un esempio con dei numeri, abbiamo circa 3.300 soci del club alpino, che si collocano all'interno dei 300.000 che sono a livello nazionale, ma solo Bergamo per esempio ne ha 26.000. Quindi una città di 60.000 abitanti a 26.000 soci. E secondo te questo non dipende dal fatto che loro le montagne ce l'hanno fuori casa? Sì, noi abbiamo montagne comunque a un'ora e mezzo, un'ora di automobile, quindi è solo parzialmente vera questa cosa. Ci sono sezioni anche che hanno Bologna, per esempio, che ha le montagne non a colline vicino, ma le montagne vere sono abbastanza lontane, ha comunque un numero di soci molto consistente. Quindi è come se noi, paragonandoci a quelli del nord, dovremmo avere non 3.000 ma 300.000 soci. In realtà ne abbiamo molto pochi. E tu lo attribuisci a? Ha un problema culturale, certamente. Io con i colleghi di lavoro, con le persone comuni, usando un termine forse improprio, con cui parlo delle mie vacanze in montagna, vengo forse preso per un pazzo, che nel momento in cui uno si dovrebbe riposare decide di andare a faticare, tra virgolette, in montagna. Cerco di spiegare loro che la stragrande maggioranza di noi fa dei lavori sedentari, magari in un ufficio, quindi il tipo di stanchezza che sicuramente abbiamo a fine giornata non è riconducibile a una stanchezza fisica, ma a una stanchezza di altra natura. E quindi passare una giornata in mezzo alla natura camminando e avendo la testa sgombra da tanti stress è una forma di riposo estrema per quel che mi riguarda e per quel che vedo e percepisco da tutti gli appassionati di montagna. Senti, se dovessi fare un identikit, che tipo di persone frequenta il CAI e in generale chi ha un rapporto stretto con la montagna? Che tipo di, se dovessi proprio ragionare per grandi numeri o anche per tua esperienza personale, che tipo di persona è? Un individualista, una persona che ama molto le sfide, una persona invece che ama molto il gruppo, lo stare insieme, una persona solitaria, una persona casinara, se dovessi fare un identikit del frequentatore tipo e del CAI e del mondo della montagna, non so se vuoi separarli o unirli, insomma. Ma è un mondo molto variegato ed è molto anche legato al tipo di attività che si svolge in montagna. L'escursionismo anche è variegato perché ci sono escursioni molto semplici, con poco dislivello, con poche ore di cammino, e ci sono delle vie ferrate, impegnative, di molte ore, che indubbiamente differenziano moltissimo la tipologia di persone. Spiega solo un attimo che cos'è la ferrata per chi non lo sa. Sì, è un forse definibile la parte più estrema dell'escursionismo, quindi è un qualcosa che è sul livello di confine tra alpinismo ed escursionismo, dove ci sono dei tratti, dove ci sono delle corde metalliche o delle scalette che permettono, appunto, tratti ferrati che permettono di assicurarsi a queste corde metalliche con delle corde dei moschettoni o di progredire su difficoltà magari alpinistiche dove ci sono delle scalette metalliche, appunto. E quindi ecco la differenza anche del tipo di attività. Noi nella sezione di Roma abbiamo tutte le attività istituzionali del CAI, dall'alpinismo, lo sci alpinismo, lo sci di fondo escursionismo, la mountain bike, che in realtà si definisce ciclo escursionismo e mountain bike, la speleologia, il gruppo di alpinismo giovanile. Abbiamo anche un coro che si riunisce ogni settimana, effettua diversi concerti, coro di montagna ovviamente. E quindi è molto differente la tipologia della persona che fa la passeggiata dall'alpinista. Certamente l'alpinista è un individualista, ricerca alcuni aspetti diversi da chi fa fare la semplice passeggiata, ma anche all'interno dell'escursionismo c'è chi lo fa per semplice edonismo personale, per il proprio ego, c'è chi lo fa con uno spirito quasi agonistico e chi lo fa con un approccio molto più soft, più di coinvolgimento di se stesso nell'ambiente. Quindi è sbagliato immaginarsi, parlo per i nostri radioascoltatori che sono un po' digiuni di escursione di montagna, dico è sbagliato immaginarsi un gruppo di Superman che... Assolutamente, assolutamente. Vi sono anche nella nostra associazione, nei gruppi che si formano, persone con varie caratteristiche anche fisiche, varie preparazioni. È indubbio che una persona che fa una vita sedentaria da molti anni all'inizio soffrirà molto nell'andare in montagna, e quindi una delle cose che noi spieghiamo durante anche i nostri corsi di escursionismo quanto sia importante anche un allenamento, che non è un allenamento mirato a un'attività agonistica per raggiungere un obiettivo appunto agonistico, ma è un tipo di allenamento che serve per permetterci di andare in montagna in sicurezza, senza rischiare un incidente o di infortunarci perché non siamo in grado di poter effettuare una camminata anche di 4-5 ore, che è definibile un'escursione molto breve, ma se non si ha un minimo di allenamento si rischiano degli infortuni. tu lo sai che già qualcuno di chi ci sta ascoltando adesso, sentendo che 5 ore è un'escursione breve, sta già cambiando stazione, sta già... che probabilmente adesso starà con la tazza di caffè e latte in mano in questo momento, capito? Quindi... Beh, diciamo che normalmente a quest'ora, quando non devo essere in radio, a quest'ora già sono in cammino da alcune ore. Si parte in genere all'alba da Roma per essere sul luogo del Montano, dove si inizia il percorso non più tardi delle 8:39, quindi per le 6:30 generalmente partiamo da Roma. Senti, Roberto, come in ogni puntata, arrivati a metà della nostra chiacchierata, c'è sempre una breve pausa musicale con una canzone inerente, la maggior parte delle volte in maniera scherzosa, con il luogo comune che stiamo trattando. In questo caso avrei scelto di Elio di Storie Tese, in collaborazione con Giorgia, un brano che si chiama Ignudi fra i nudisti, dell'album Studentessi del 2008. Ed è, insomma, si tratta di un uomo e una donna, probabilmente marito e moglie, che litigano perché l'uomo più pantofolaio vuole andarsene al mare, mentre la donna più avventuriera vuole appunto andarsene in montagna. Sentiamocelo e poi ritorniamo tra qualche minuto in studio. Partirò. Ogni estate c'è un dilemma estivo: se andare al mare andare in monti. Dobbiamo decidere. Io ad esempio voglio andare al mare, fare il bagno con le arselle alle Seychelles. Io ad esempio voglio andare ai monti, là sulla vetta la voglia di andare al mare. Mi butto dal monte, tu sorridi o m'angosci, io e te nell'eremo. Sono scettico, il decader lì non va. Vai con gli scettici, ma sono scettici. Bagnasciuga. fare il sudoku. E rieccoci dunque, tornare in studio, sempre luogo comune, sempre Valentino De Luca dai microfoni di Radio Città Aperta. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e come foto ci sono io che parlo in radio. Su Twitter ci trovate a chiocciola luogo c, oppure per pareri, suggerimenti o critiche luogocomune.radio@gmail.com. Il tema di oggi è la montagna è da vecchi, e ne stavamo appunto parlando con Roberto Bernardi, vicepresidente della sezione di Roma del CAI e direttore della scuola di escursionismo. Roberto, hai sentito la canzone di Elio, dove c'era Elio e Giorgia che litigavano un po', uno voleva andare al mare, uno in montagna? Te ti è mai capitato personalmente di dover discutere con uno che ti diceva che la montagna era un po' pallosa, andiamocene al mare? No, io lo ricordo molti anni fa, ma ero molto giovane. Trascinai una mia ex in montagna per una giornata e per una settimana non mi rivolse la parola. Non voglio sapere che l'hai portata a fare. Ma una cosa anche piuttosto semplice, ma era, ecco, appunto una ragazza che amava il mare. Senti, lo scalare una montagna implica uno sforzo fisico non indifferente, e comunque ti obbliga a fare i conti col tuo fisico, appunto, con la tua preparazione. In un certo senso potremmo dire che anche avere a che fare con la montagna ti misura un pochino con le tue angosce e i tuoi limiti. Tu hai un rapporto particolare con il tuo corpo, inteso come corpo e anche mente, insomma. Quando vado in montagna? Quando vai in montagna? Diciamo sì. Che dopo quasi 30 anni, che, anzi esattamente 30 anni che vado in montagna, credo di aver conosciuto i miei limiti, le mie capacità, e adesso forse sono confortato dall'esperienza. Io ho 46 anni, quindi un'età un po' di mezzo, relativamente giovane per la montagna. Mi sono misurato appunto su varie discipline, su varie difficoltà, ho effettuato qualche salita importante su montagne anche molto alte, oltre 5.000 metri in Himalaya e sull'Elbrus in Russia alcuni anni fa, anche qualche via alpinistica di lieve entità. Quindi diciamo che il mio rapporto adesso è molto più sereno, perché so quali sono i miei limiti, non devo più forse dimostrare nulla a me stesso, ma tantomeno agli altri, ma quello non è mai accaduto nel mio approccio con la montagna. Era più un rapporto appunto con me stesso, e quindi il mio corpo lo conosco piuttosto bene. Chiaramente si modifica, cambia con gli anni che passano, però l'esperienza, il bagaglio di esperienze che si hanno in montagna sono un bagaglio importantissimo. Posso solo fare un piccolo... noi quando organizziamo appunto questi corsi abbiamo persone, partecipanti che variano dai 20 anni ai 60, e spesso i 60 anni sono più forti dei 20 anni. Più forti in che senso? Perché arrivano ad avere un approccio con la montagna, magari dopo comunque un'esperienza sportiva durante la propria vita. Difficilmente un sedentario a 60 anni decide di andare in montagna, mentre spesso capita che lo faccia il ventenne. E l'esperienza magari maturata da un sessantenne gli permette di raggiungere dei risultati che la foga del ventenne non riesce a... Certamente ha più energia un ventenne, non sto dicendo questo, ma... il mio discorso voleva palesare l'esperienza, il saper dosare come le proprie... approccio di mentalità proprio. Sì, certo, un approccio mentale che permette di superare delle difficoltà notevoli. Senti Roberto, ma tu hai mai avuto paura o ti sei trovato in oggettiva difficoltà? Hai mai pensato non ce la faccio? Io ho avuto la fortuna di fare i passi un po' per gradi, quindi sono arrivato al CAI relativamente giovane, quindi ho avuto un approccio didattico con la montagna sin dall'inizio, con corsi fatti appunto da semplice partecipante, da socio che voleva migliorarsi, quindi ho avuto un imprinting buono, conoscere la montagna appunto per gradi, quindi non mi sono mai ritrovato in una situazione situazioni difficili, certo, in montagna ne capitano, però mai in situazioni superiori alle mie capacità. Non mi sono mai trovato in una difficoltà che era superiore alla mia capacità di uscirne. Hai un aneddoto, visto che hai parlato di Russia, hai parlato insomma di cose importanti. Ma ho assistito a degli incidenti anche gravi, per fortuna in maniera molto relativa, che non coinvolgevano persone che accompagnavo o che erano con me. In alcune situazioni, anche qui sui Monti Sibillini, ho assistito a una persona che è morta, che è precipitata sul ghiaccio in una salita invernale, in un momento in cui, ecco, quando noi avevamo deciso già di riscendere perché le condizioni non erano quelle ideali. Quindi saper scegliere, saper anche rinunciare in montagna è qualcosa di molto importante. Certo, non sempre è così facile. L'esperienza ti porta a avere questa capacità di saper scegliere, saper rinunciare nel momento in cui è necessario. E lo dico anche per chi ci sente, ovviamente è un caso sempre estremo, si parla, bisogna sempre vedere quelle situazioni che ovviamente sono capitate, ovviamente. Anzi, proprio per chi frequenta diciamo il CAI, o per chi approccia proprio la montagna, proprio perché sa che la montagna, primo per altitudine, questo è ovvio, ma poi per appunto il ghiaccio, per una frana, uno smottamento, per proprie condizioni fisiche, insomma ci sono delle situazioni che ti pongono di fronte a delle scelte e soprattutto di fronte anche a dei pericoli. Per quanto riguarda questo tema, voi siete insomma immagino abbastanza sensibili sulla sicurezza in montagna. Assolutamente, in realtà è la prevenzione. Tutti i nostri corsi hanno questa funzione primaria di formare persone che si chiamano indipendenti poi nell'andare in montagna, e lo possono fare in maniera responsabile. È importante dire che oltre il 90% degli incidenti di cui appunto si arriva alle cronache sono in montagna, sono legati a degli errori soggettivi, quindi non la disgrazia o l'evento assolutamente imponderabile in montagna è rarissimo. Non voglio parlare della valanga, che è uno step superiore, diciamo, però anche quella sta mietendo molte vittime negli ultimi anni, con il clima che è cambiato, con molti appassionati che aumentano nell'andare in montagna. Quindi conoscere la montagna evita molti incidenti, ma l'incidente ne possiamo uscire fuori. La valanga non è un evento così casuale, non è una pietra che casca dall'alto in maniera sconsiderata. E poi mi pare di capire che soprattutto se una persona ha la giusta preparazione, anche attraverso insomma le vostre lezioni o i vostri suggerimenti, e fa quello che deve fare, la percentuale diventa sempre sempre più bassa, insomma non si potrà mai azzerare, questo non certo, sto dicendo questo, certo. Però insomma se uno fa le cose per bene, per così dire... Ma è un esempio banale anche quello di muoversi in città, ogni cosa che facciamo ha una componente di rischio, anche attraversare una strada trafficata lo ha, anche venire qui presso questi studi con una moto potrebbe essere, ha una componente di rischio, però mettere un casco, guidare... Posso fare gli scongiuri, visto sì. Che ci vengo in moto? Io mi sposto in bicicletta e ho dei rischi forse in parte anche superiori, essendo un mezzo più debole e più lento. Però ecco, non fare il possibile, quindi usare un casco, avere una guida prudente può limitare moltissimo gli incidenti. In montagna avviene ancor più, perché l'evento casuale è veramente molto molto remoto. La conoscenza anche della zona dove si va, la frana anche di sassi, ci sono delle zone dove è frequente che capitino queste cose. Mi viene da pensare alla via direttissima al Corno Grande del Gran Sasso, che d'estate, dove è molto frequentata, è facilissimo, anzi capita spessissimo che ci siano scariche di sassi, quindi salire senza un caschetto protettivo è una grave imprudenza. Senti, quest'anno ricorrono i propri 150 anni del CAI, quasi vecchio come il nostro paese, di cui invece ricorrevano i 150 anni nel 2011. Di fatto, dunque, per motivi anagrafici, possiamo dire che il CAI ha accompagnato la storia di questo paese. Visto che tu ne fai parte, ne sei un membro anche importante qui a Roma, come secondo te com'è cresciuta questa associazione e quale contributo ha dato al paese, insomma, il CAI? Dunque, noi abbiamo festeggiato proprio una settimana fa a Roma i 150 anni con circa 500 soci che si sono ritrovati e hanno raggiunto la nostra sede che è a Testaccio, in via Galvani, provenienti da tre cammini, dalla via Francigena, dalla via Micaelica e da un percorso che costeggiava la via Salaria. Quindi simbolicamente appunto univa nord, sud ed est, quindi varie zone del nostro paese, quindi idealmente l'unità. E anche la storia del nostro paese nasce a Torino. Il CAI fu fondato nel 1863 da Quintino Sella nell'allora capitale d'Italia, che era Torino, e poi 10 anni dopo, con l'unificazione dell'Italia e con la capitale che si era trasferita a Roma, su sua spinta appunto fu fondata la sezione di Roma, quindi è una sezione anch'essa molto antica, che ha noi festeggiamo i 140 anni, quindi è tra le sezioni più antiche del nostro paese, e che ha annoverato dall'inizio appunto la passione per la montagna di chi in quegli anni iniziava a esplorarla. L'alpinismo in realtà è iniziato proprio alla fine dell'Ottocento, sono stati gli inglesi che per primi si sono avvicinati alla montagna con un approccio appunto esplorativo, conoscitivo, per motivi scientifici e per non più motivi pratici come avveniva per le altre popolazioni, quindi per la caccia, per la pastorizia o per altre cose più strettamente legate al fabbisogno dell'uomo. E quindi se tu dovessi dire un contributo che ha dato a questo paese, anche una formazione di conoscenza di tutto il territorio, cioè quindi non solo per prendere la canzone di Elio e Giorgia, il mare che può essere più facile. Beh, collina, in realtà le esigenze del paese e della montagna si sono modificate ovviamente, però ecco, una cosa splendida che è stata inserita proprio nell'articolo 1 del nostro statuto è la preservazione dell'ambiente montano, quindi anche quando l'ecologia era un concetto quasi sconosciuto alla fine dell'Ottocento, perché fortunatamente forse c'era meno inquinamento, le città erano più piccole, si è pensato appunto di metterlo proprio al primo punto, preservare l'ambiente montano, l'inquinamento, il deturpare l'ambiente montano. E su questo il Club Alpino negli ultimi 30 anni, forse anche 40, ha avuto un'importanza rilevante a livello nazionale ovviamente. Quindi tutta l'istituzione dei parchi spesso è stata possibile per lo sforzo fatto anche dal Club Alpino. E poi con l'aumento di appassionati che andavano in montagna, di persone che andavano in montagna, l'istituzione del soccorso alpino e speleologico, che è appunto una sezione del CAI, quindi il CAI si occupa in maniera rilevante del soccorso con elicotteri o anche a piedi in ambiente montano. Ed è bene ricordare che spesso il soccorso alpino interviene anche su incidenti automobilistici, quando magari le automobili e i feriti finiscono in delle scarpate o in delle zone impervie, interviene il soccorso alpino perché è l'unico che può essere in grado di arrivare velocemente sul luogo dell'incidente. Quindi sicuramente una funzione essenziale pubblica, insomma, per la comunità. E, senti, ti è arrivato il momento dei saluti, ma come sempre quindi c'è la domanda, il domandone finale, ovvero bisogna confermare o smentire il luogo comune che stiamo trattando. Dunque Roberto, io ti chiedo, la montagna è da vecchi? Assolutamente no. E il numero di giovani che abbiamo anche nella nostra sezione in tutta Italia dimostra esattamente il contrario. Quindi è l'approccio con cui vogliamo andare in montagna che cambia. Roberto, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Prego, buona giornata a tutti.